La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto a tutti, questa è la nostra ora di cinema qui su Radio 24, Franco D'Assisi in studio, Boris Sollazzo in collegamento, siamo tutti qui per raccontarvi come sempre tutto il cinema che c'è e ce n'è davvero tanto di grande qualità questa settimana, non c'è l'orgia di titoli della settimana scorsa, 14 film, ma ce ne sono 8 che non sono pochi ovviamente e non sono pochi soprattutto perché fra motivi di cassetta e motivi qualitativi ce ne sono molti di cui parlare, quindi cominciamo subito a entrare in uno di quelli che stanno nella lavagna dalla parte dei motivi di cassetta, senza dubbio, perché fra i film usciti questo giovedì è quello che è partito meglio, anche se, lo dico subito, il box office lo sta dominando Inferno di Ron Howard, che è già il sesto incasso stagionale, ha superato 6 milioni di euro per il momento e veleggia a colpi importanti, arriverà sicuramente molto in alto. Dicevo però, l'altro film di quelli usciti questa settimana, quello che è andato meglio nei primi giorni è stato Jack Reacher con Tom Cruise. Puoi schedarlo e portarlo in cella. Due cose capiteranno nei prossimi 90 secondi. Mi scusi. Primo, quel telefono laggiù squillerà. E secondo, avrà lei le manette ai polsi mentre andrà in prigione. Questa è una magnifica profezia, signor Reacher. Sceriffo Raymond Wood. Che diavolo è lei? Qualcuno che non vi aspettavate. E allora, 5 persone uccise da un cecchino misterioso, mentre apparentemente non stanno facendo altro che vivere come tutti i loro altri giorni, il sospettato viene arrestato, pestato brutalmente, prima però di chiudere gli occhi in un coma che vedremo se è irreversibile o meno, fa un nome appunto Jack Reacher. Bisogna capire chi è questo personaggio, cosa c'entra con questa mattanza. Come avete sentito dalle clip, è un personaggio un po' sborone per intenderci, no? Cioè 90 secondi, squillerà il telefono, io la manetterò. E però insomma, se quel personaggio è il volto di Tom Cruise e soprattutto se nel cast ci sono attori grandi come per esempio Richard Jenkins, per dirne uno, e anche insospettabili come Werner Herzog, che si gioca un ruolo importantissimo dentro questo film d'azione, beh insomma il divertimento è sicuramente garantito. Boris Sollazzo è in collegamento con noi. Boris, divertimento garantito anche con un po' di sostanza o insomma accontentiamoci di quello? Guarda, divertimento garantito sono d'accordo, però mi concentrerei sul garantito, nel senso che in questo caso la garanzia è anche un segnale di prevedibilità. Jack Reacher segue in qualche modo la falsariga di Jason Bourne, no? Un uomo all'interno del sistema, cresciuto per essere una macchina da guerra, o come dici tu, uno sborone, o come potremmo dire a Roma, un coatto antico, e che poi però da questo sistema viene espulso perché è un uomo troppo indipendente, perché è un uomo che ha in sé il vero sogno americano, quello di giustizia, quello di cercare attraverso la propria libertà di fare la cosa giusta, e che quindi a un certo punto è costretto ad agire sostanzialmente da ramingo, da battitore libero, combattuto non tanto più dai cattivi quanto dai buoni a cui aveva consacrato la propria vita. Il problema di questa situazione è che puoi reagire o come con Jason Bourne, che è una saga molto solida, che si fonda su un Matt Damon ancora molto in forma e che cerca sempre comunque, sia nella sceneggiatura sia nella regia, di andare un po' oltre, di cercare anche un contesto e una struttura politica, o come in Jack Reacher, che si concentra invece tutto su Tom Cruise, tutto su delle piste già percorse, su quell'action che inevitabilmente nella declinazione americana diventa fracassone e appunto tutto fondato sul suo protagonista. Quindi questi 130 minuti sono un divertimento garantito, soprattutto per chi ama la saga e per chi ama il genere, ma allo stesso tempo sono una garanzia di vedere quello che ti aspetti nel momento in cui sei seduto sulla poltrona, cioè puoi prevedere più o meno quasi ogni battuta e più o meno quasi ogni scena, e questo ti rende un po' stanco nella visione, anche se poi devo ammettere che nel momento in cui sei sulla poltrona, la forza e bellezza produttiva del film, il carisma naturale di Tom Cruise, che di fatto in Jack Reacher fa uno spin-off, anche se c'entra poco, diciamo, a livello di storia di Mission Impossible, porta avanti la baracca senza problemi. Il punto è che l'impressione è che secondo me sia Jack Reacher sia lo stesso Tom Cruise comincino ad essere un po' stanchi dei loro personaggi e dei loro stereotipi. Lo stesso Cruise, che normalmente ci ha abituato spesso da stuntman a scene pazzesche, incredibili, sempre un centimetro oltre l'asticella già alta di quello che si erano posti e proposti, cominci ad invecchiare mentalmente e cominci insomma a giocare un po' più al risparmio. Quindi Jack Reacher da una parte non delude perché ti dà esattamente quello che vuoi, dall'altra però non ti dà quel salto di qualità, quel qualcosa in più che invece normalmente i film con Tom Cruise e anche in particolare Jack Reacher, che era una saga magari minore ma molto interessante, riusciva a darti, anche quel pizzico in più, quella scena in più, quell'intuizione in più. L'impressione è che insomma si sia un po' fermata, quindi non da bocciare, ma forse da rimandare o forse da stoppare, forse è stato già dato il meglio. Signora, questi uomini sono qui per il suo trasferimento. Chi sono? Richard! Fermo! Sono venuti a ucciderti. Soldato, sai con chi parli? È stata sollevata dal comando, signor. Non c'è tempo. Sono trattenuta qui senza motivo, il tuo diritto è... Quel soldato era sotto il mio comando. Non abbiamo tempo per queste cose. Ho dato ordini precisi perché non fossi coinvolto. Ordini su di me? Sì, sapevo che avresti agito così. Ah, non farmene pentire. E allora abbiamo cominciato con Jack Reacher, adesso la viabilità, fra poco Pastorale Americana, film molto atteso dopo il successo soprattutto del libro, e Diego Abbatantuolo con noi per parlare dei Babysitter. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, dicevamo Pastorale Americana o American Pastoral, tanto si capisce tutto come nel titolo originale. È uno dei film più attesi di questa stagione in generale, perché appunto, come dicevo prima, arriva da un libro che è stato un vincitore di un Pulitzer, è stato un capolavoro, il capolavoro forse di Philip Roth, quindi di un grande scrittore comunque, ed è un testo che da anni si aspettava potesse sbarcare al cinema. Lo fa con la regia di Ewan McGregor, con lo stesso Ewan McGregor protagonista, insieme a Dakota Fanning, Jennifer Connelly, tanto per dare alcuni nomi del cast, ed è la storia di un sogno americano infranto, di un uomo che ha tutto dalla vita, detto lo svedese, ha una carriera importante, soldi, fama, una moglie bellissima che è stata addirittura Miss New Jersey, e questa incarnazione del sogno americano si rompe improvvisamente quando la figlia, adolescente, compie un attentato terroristico che provoca addirittura una vittima. Dove ha sbagliato lo svedese? Vuoi protestare contro la guerra? Protesta qui a Old Rimrock. È come marciando intorno all'ufficio postale. Portiamo la guerra in casa, non è lo slogan. Senti, ho avuto questo premio. È una stupida targa, ma significa che se fai quello in cui credi, la gente lo nota. Ti puoi opporre alla guerra anche qui, con tutte le tue forze. Anche questo è un pezzo d'America, sai? Leggi Marx. Non è in campagna che comincia la rivoluzione. Ma non stiamo parlando di rivoluzione. Tu non parli di rivoluzione. Boris, allora, Ewan McGregor alle prese con un doppio ruolo, regista e interprete di uno dei testi che incarnano meglio il racconto del sogno americano infranto, come dicevo prima, nella lettura americana contemporanea. Mi viene in mente un paragone con Revolutionary Road, tanto se vogliamo proprio tirarne fuori un altro che aveva un po' questo sapore amaro del dietro le quinte di questo sogno americano che ha fatto diventare gli Stati Uniti quello che sono, ma da parte di una certa critica li ha fatti anche odiare proprio per quello. Ecco, come se la cava Ewan McGregor in questo compito piuttosto duro? Il compito è durissimo, prendere il testo importantissimo, fondamentale, fondante del Nobel a furor di social, perché Roth, come DiCaprio, continua a non vincere un premio che tutti considerano necessario per la sua carriera, e adesso ci sono i social a ricordarcelo sempre, forse non vincerà l'Oscar con American Pastore, quindi non metterà nell'ideale bacheca di Philip Roth un altro grande premio, però è sicuramente un'operazione straordinaria perché uno come Ewan McGregor poteva cominciare la sua carriera di regista con qualcosa di estremamente più semplice e più sicuro, e invece si è messo a prova con un testo clamoroso in tutti i sensi, sia per la sua difficoltà sia per tutto ciò che ha in sé, perché qui secondo me si parla di qualcosa di più del sogno americano che diventa un incubo. Si parla, e in questo il tuo paragone è molto calzante, di tutte le contraddizioni che sono all'interno di un paese che allo stesso tempo idealista e rabbioso, selvaggio e aspirante alla civiltà più alta, tanto da volerla esportare. Un paese che sa benissimo cosa vuole essere, che spesso perde la sua identità, ed è quello che succede al protagonista americano. Io chiedo a tutti gli spettatori di fare quello che ho provato a fare io, non essere schiavi del capolavoro di Philip Roth, perché è impossibile portare quell'intensità, quella forza narrativa, quell'impeto idealista e allo stesso tempo cinico, strutturale, distruttivo che c'era in Pastorale Americana. Però era possibile coglierne lo spirito, coglierne la forza morale e mai moralista. E secondo me in quel senso Ewan McGregor ci riesce con l'umiltà di portare in campo una regia che non è banale ma che non è invasiva, ci riesce grazie a un cast pazzesco, oltre a quelli che hai ricordato tu aggiungo un incredibile David Strathairn, secondo me, che rende straordinario il suo personaggio. Ci riesce perché capisce che cos'è Pastorale Americano, lo sente dentro, è Pastorale Americana, lo sente dentro e lo porta sullo schermo. Il risultato qual è? Non è quello delle pagine, non ha forse la stessa forza. Io ho desiderato di non aver letto Pastorale Americana, perché secondo me chiunque riuscirà a vederlo senza averlo letto avrà voglia di leggerlo e avrà due belle sorprese, avrà un bel film e un capolavoro letterario nel suo bagaglio culturale, ma è una bella lezione di cinema e letteratura, cioè la capacità di un uomo di cinema, di un attore molto bravo e di un regista che lo diventerà ancora di più, di far sposare due arti cercando di fare qualcosa di impossibile e che lui ha reso possibile. Certo, ha i suoi limiti, certo non si arriva a quei livelli, ma è comunque, a mio parere, un ottimo film, come non se ne facevano da tempo, perché un altro merito, e forse il più grande merito di Ewan McGregor, è non aver paura della narrazione classica, ma utilizzarla per raccontare qualcosa che di classico non è affatto. E allora, Pastorale Americana nei cinema italiani, fra poco parliamo di I Babysitter, cioè cambiamo totalmente genere, e avremo qui in intervista, rilasciata la Rosa Purpurea, Diego Battantuono. Prima però bisogna giocare. Allora, avvertenza, quando dico nella vostra risposta mettete il vostro indirizzo privato, dovete farlo, perché altrimenti non vincete niente. E allora, mettete per favore sempre il vostro indirizzo, perché settimana scorsa, poi ne parleremo, i nostri due ascoltatori non l'hanno fatto, adesso noi siamo qui che li cacciamo in giro per l'Italia per provare a regalargli un DVD o un Blu-ray. E allora, andiamo a ascoltare con quale film giochiamo questa settimana. Ti ho vista così bene l'altra volta. Queste due bambine mi hanno ricordato te, Antia. Sono le mie nipoti. Che ti è successo? L'ultima volta stavi così bene. Un incontro tra due donne, un sentire melodrammatico, potremmo dire. Se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincerne il DVD, scrivete alla Rosa Purpurea @radio24.it il titolo del film e il vostro indirizzo, appunto. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. E allora arriva il ciclone dei Babysitter di Giovanni Bognetti con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, E Diego Abatantuono in questa notte da leoncini, potremmo dire, visto che tutto parte perché casualmente un dipendente di un arrogante manager, che appunto Diego Abatantuono, viene scelto per tenere il bambino durante quella notte, e durante quella notte succederà di tutto. Guarda, ho qua davanti una persona molto importante, non posso farla aspettare. Che cazzo sei tu? Ma come salta tutto? Mi ho obbligato. Ci sarebbe a tenere mio figlio, guarda, c'ha 10 anni. Capito, ma è il mio compleanno. Tanti auguri. Remo ha l'asma. Qui c'è l'asmolin, glielo dà in caso di bisogno. Mamma? Compleanno di Andrea. Stasera si sboccia. Sonnifero. Sonnifero? Sì. Ma siete scemi? Un po' di LSD non volete darglielo? Adesso iniziamo col sonnifero. E lì come va? Tutto bene. La polizia. C'è stato un problema a casa sua questa notte. Però abbiamo organizzato l'unità di crisi. Ecco, perché tutta la storia viene raccontata con il criterio del found footage, cioè una telecamerina ritrovata la mattina dopo, non si trova il bambino, non si trova il babysitter, non si trova nessuno in questa villa devastata, si trova però una telecamerina nella quale è raccontato, ed è il film che lo spettatore vede, tutto quello che è successo in quella notte da leoncini. Boris, notte da leoncini nella quale si ride abbastanza, nella quale il divario fra, secondo me, fra Diego Abatantuono e il resto del cast è abbastanza evidente, nella quale forse manca un po' di grinta recitativa da cinema ai troppi volti della televisione, dello YouTube, degli internet che sono stati coinvolti, e forse soprattutto un po' di scatto in più alla regia, al montaggio. Pienamente d'accordo. Il problema dei babysitter è che intanto è cinema derivativo allo stato puro, perché è il remake di Babysitting, che è francese, ma di fatto, come dici tu, è nient'altro che Una notte da leoncini, quindi è un remake di qualcosa che già ricalcava un modello in maniera scoperta. L'idea di farlo in Italia può essere divertente e neanche tanto sbagliata, perché non siamo abituati a quel tipo di commedia, se non declinandola spesso all'aspetto più volgare e non a quello iniziale. Inevitabilmente però, come dici tu, c'è un problema appunto alla recitazione. Sono d'accordo sul fatto che il divario tra il carisma di Abatantuono e gli altri elementi del cast è abbastanza evidente, anche se insomma i due giovani coprotagonisti sono un'ottima coppia già rodata, e soprattutto nelle scene più estreme rendono, ma anche lo stesso Abatantuono sconta in qualche modo un personaggio che si sta cucendo addosso, quello del cinico brillante che forse non ha mai abbandonato in questi anni, ma che inevitabilmente, forse anche per una pigrizia recitativa, lui continua a perseguire, anche perché gli riesce benissimo. Il problema è proprio una standardizzazione comica in questo caso. Non si può dire che non si ride, spesso, forse è esagerato, ma con una buona frequenza. I ritmi, anche se il montaggio, come dicevi tu, non è straordinario, sono anche buoni. Il problema è che se Todd Phillips riesce a dare uno spazio alle battute, alle gag e alle situazioni, Borgnetti questo non riesce a farlo. Trova sempre l'esigenza di sincopare la battuta, di sincopare la situazione, di non dargli il respiro, di non dargli spazio, di non avere forse neanche il coraggio di farla andare fino in fondo, perché replica alcune anche delle scene più estreme e anche più triviali, ma forse non le lascia la briglia sciolta. Insomma, una sorta di notte di leoncini in cui i leoncini però alla fine hanno la museruola. Ci si può divertire? Sì. Ci andrei a rivederlo? Credo proprio di no. E allora, i babysitter, fra poco, dopo aver dato la linea alla regia, Diego Abatantuono alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea. Siamo ormai pronti a darvi l'intervista a Diego Abatantuono sui babysitter. Io vi voglio solo ricordare che dopo aver finito di parlare dei babysitter affronteremo quello che per me è il film della settimana, e non solo, Daniel Blake, il film che ha vinto il Festival di Cannes quest'anno, presentato anche in Piazza Grande a Locarno, alla presenza di Ken Loach. Insomma, voglio dire, un film che ci racconta molte cose di quello che siamo. Ne parliamo fra poco. Prima però Diego Abatantuono, dicevamo i Babysitter, che è tra l'altro il remake di una commedia francese che si chiamava Babysitting, appunto. E allora come si lavora a un film nel quale, un film che c'è già, che bisogna rendere diverso attraverso il proprio modo di recitare, attraverso la regia? Qual è il lavoro che si fa su un remake di questo tipo? Diego Abatantuono. Ma non c'è nessun riferimento al ruolo precedente, nel senso che tu prendi una storia, un'idea, e anche quando un film è ex novo tu hai un'idea, hai un canovaccio, hai un copione. Più è interessante il copione, più è particolarizzato, più sono belle le battute e più resta simile a quello che vedrai poi nelle sale. Ma c'è sempre un'evoluzione sul set e una modificazione di quello che sono che è quella la struttura. Quello che conta è la struttura, quindi tu quando fai un remake di un film messicano o come in questo caso francese, prendi in blocco la struttura, non vuoi buttar via niente di quello, perché è quello che conta. Le battute poi si cambiano, si mettono a posto, io non ho riferimenti. Devo dirti la verità che sia l'attore messicano che interpretava il protagonista di Belli di Papà era bravo, però io l'ho fatto a mio modo, non farei la gara, cioè non dico che mi è venuto meglio a me, però sicuramente l'ho fatto come volevo io. E anche questo l'ho fatto in un altro modo, perché io non sono francese, non sono messicano e ognuno ha il suo stile. Certo è, aggiungerei che la commedia la facciamo meglio noi, sia dei messicani che dei francesi. In questo caso hai lavorato con un cast di giovani più o meno affermati, anche di giovanissimi, anche un bambino di 10 anni. Come ti è sembrato il livello medio? Cioè, c'è gente che da poco come Facchinetti, come Francesco, c'è gente che ormai è sgamata come Mandelli. Cioè, com'era l'amalgama di questa squadra? Il film è come una come quando vedi la battaglia delle bighe. Cioè, i cavalli tirano ad andare più forte possibile e il regista che cerca di gestirli, questa è la chiave. Loro dovevano dare molto, c'è chi era più embrionale, chi invece era già più, come dicevi tu, più scafato. Mandelli c'ha un suo stile, però c'era un regista che gestiva le cose e la stessa cosa vale per tutti gli altri. Sono tutti attori che sanno già fare il loro lavoro, quindi insomma, a parte il bambino, ma gli altri erano tutti sono tutte persone che fanno questo lavoro, a parte anche Facchinetti, che però è uno che ha dimostrato di essere una persona intelligente perché segue attentamente le indicazioni e non è da tutti, perché l'intelligenza di una persona, anche artisticamente parlando, è proprio quella di ascoltare i consigli e i suggerimenti. Cioè, quando uno non ascolta i consigli e i suggerimenti vuol dire che già non è portato per questo mestiere, perché questo mestiere è un mestiere corale, devi ascoltare tutti e da tutti puoi trarre un vantaggio. Buongiorno signor Luini. Stavo proprio per citofonarle. Se vuole torno dentro e parliamo al citofono, ma visto che siamo qua dal vivo parliamo. Ieri ho misurato le sue ciepi, sono più alte di 3,5 metri, di ben 8 centimetri, 8. Io intendo avvisarla, porgerò reclamo ai vigili se lei non farà il necessario per rimediare. Guardi, ho chiamato la Protezione Civile e la Guardia Forestale. Gianni, non escono, Gianni. Non mi escono, cosa Gianni. Devo fare? Insomma, parli con come si chiama? Hector, lei si ricorda. Parli con lui. Va bene. Non parla italiano, ma vi trovate sicuramente. E allora i Babysitter, Diego Abatantuono, La Rosa Purpurea. Siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Viaggia da sola? Sì. Quando l'ho vista da sola ho pensato, meno male, così ci facciamo compagnia l'uno con l'altra. Non le va di parlare. Un treno, una coppia che prova a parlare, anzi lui prova a parlare con lei ma non ci riesce, nell'interno di un melò, come abbiamo detto prima. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci titolo e vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco sveleremo il titolo del film, settimana prossima i vincitori. allora parliamo di I, Daniel Blake. Dicevamo Palma d'Oro al Festival di Cannes nel maggio scorso, film che è stato presentato anche alla presenza dell'autore in Piazza Grande a Locarno. È stato un po' il film che ha contrassegnato la parte centrale di questa stagione. Ken Loach aveva detto di non voler fare più film, fortunatamente invece sta continuando a farli, e con questo ci commuove veramente, raccontando la storia di un falegname di Newcastle, ormai quasi sessantenne, in grave crisi di salute, di crisi cardiaca, non riesce a ottenere il sussidio statale che invece gli spetterebbe, e però non smette mai di far del bene agli altri. Potrebbe darmi allora un modulo per l'assegno di disoccupazione e uno per il ricorso per l'indennità di malattia? Deve fare domande online, signore. Io non la so fare. Altrimenti può chiamare l'assistenza telefonica. Sentite, datemi un pezzo di terra e vi costruirò una casa. Ma non so nemmeno come fa un computer. Sa, noi siamo digitali di default. Eccoci qua. Lo sento sempre al telefono. Noi siamo digitali di default. Io sono Matita di default. Insomma, che succede se uno proprio non sa farlo? Esiste un numero speciale per chi ha avuto una diagnosi di dislessia. Ma mi dia quello allora, visto che con i computer sono dislessico. Lo troverà online, signore. Ora devo chiederle di uscire. L'uomo contro l'istituzione. Boris, c'è un po' di Kafka, se vogliamo, e molto De Sica dentro questo tardo Loach che ci commuove con questa storia sottoproletaria, che però ha appunto la capacità di raccontare in maniera universale il nostro presente. Sì, c'è tutto il Ken Loach emotivo ed emozionale degli inizi, quello politico è fortissimo, è anche feroce nel raccontare il sistema che si è sviluppato poi in decenni di grande televisione prima e cinema poi. E come dici tu, c'è anche la lezione del cinema italiano di De Sica e questa deriva, questo declino, questa atrocità kafkiana di un sistema che impone il mostro burocratico per annichilire i più deboli. Loach riesce a fare un cinema che probabilmente in mano ad altri potrebbe risultare solo patetico, patologico, e che invece nelle sue mani diventa materia viva, diventa materia umana di straordinaria potenza. Lui lo fa con quella sua regia che apparentemente sembra assente, che apparentemente sembra non voler cercare nessuna leziosità, nessun virtuosismo, e che proprio per questo invece ne è pieno, perché chiaramente quella regia umile, quella direzione degli attori secca ti porta dentro questa storia che potrebbe sembrare estrema e che invece è estremamente reale, perché lui si cala nella società attuale, che è una società cinica, indifferente verso i cittadini che dovrebbe difendere, che invece maltratta, con una capacità di empatia straordinaria. Ma c'è anche tanto altro di Loach, c'è anche il fatto che Daniel Blake è un eroe suo malgrado, è un eroe normale, è un eroe che ha sempre fatto il proprio dovere, lo ha fatto da marito, lo ha fatto da lavoratore, ha sacrificato i migliori anni della sua vita per curare la moglie, ha sacrificato i migliori anni della sua vita per essere un bravo cittadino, e che non riceve nulla di quello che ha dato, non ha niente di quello che lui ha portato alla società in cambio. E allo stesso tempo però il cinema degli umili di Ken Loach ci dice che queste persone rimangono le migliori, rinunciano ad aiutare qualcun altro solo perché il mondo rinuncia ad aiutare loro. E ne esce una favola nera, una favola dolorosissima, una favola dolente, una favola che ci massacra il cuore, ci massacra l'anima, proprio per la purezza e la forza di questo personaggio. C'è questa immagine che vedete anche nel trailer di lui che si improvvisa graffitaro e diventa una sorta di paladino per la folla, che non lo capisce del tutto, non capisce la sua disperazione, ma probabilmente la intuisce. Riesce a farlo solo un barbone, riesce a farlo solo un disperato come lui. Ken Loach non può smettere di fare film, perché i film che fa lui li sa fare solo lui e li può fare solo lui, e quando smetteremo di vedere i film di Ken Loach qualcosa si perderà inevitabilmente e noi diventeremo tutti più poveri, non solo il cinema ma noi come cittadini. Hai Daniel Blake, secondo me ha meritato la Piazza Grande di Locarno, ha meritato la Palma d'Oro, perché non c'è nient'altro che un film così per capire quanto a fondo siamo andati e quanto ormai siamo diventati vittime di un carnefice oscuro che si nasconde dietro le carte, dietro internet, dietro l'essere digital di default. Quindi mi commuovo io adesso a raccontarlo, figuratevi voi a vederlo. Stavo spiegando a quella donna che non conosco Newcastle perché ci siamo appena trasferiti da Londra da pochi giorni e non so dove vado, ok? Ho preso l'autobus dalla parte sbagliata, siamo scesi di corsa, subito, di corsa, per non tardare di più. Lei non vuole saperne, non vuole saperne, adesso dice che mi segnalerà deve fare per una sanzione. Cosa. Adesso deve calmarsi e ascoltarmi, d'accordo? Quello che le ha detto la signora è giusto, ci sono delle regole, regole a cui dobbiamo attenerci. Nessuno ce l'ha con lei, però lei ha il dovere... Ma non sto dicendo che ce l'ha con lei, quello che sto il dovere dicendo... di arrivare qui in orario. E io le sto spiegando perché non sono arrivata in orario. Senta, perché signora, mi sono persa. Creda, io la capisco. Il responsabile le invierà una lettera per posta, lei dovrà aspettare che arrivi e sì, allora saprà. I miei figli domani cominciano la scuola. Senta, nella borsa ho 12 sterline, è tutto perché non vi calmate e non ascoltate le persone che vi parlano. Questo nuovo, dovreste fare con le vostre regole. Insomma, davvero momenti di grande, grande intensità cinematografica nel film di Ken Loach e Daniel Blake. Adesso viabilità, fra poco Piuma di Roland Jones. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Rosa Purpurea. I soldi, le spese per il bambino, non è mica un gioco. Siete ancora in tempo. Kate, quando sei grande puoi avere tutti i bambini che vuoi. No, scusate, io non vorrei mettere in mezzo nessuno, cioè, ma neanche Fede. No, guarda, mamma, non te devi sentire. No, no, è che ho avuto un'operazione. È difficile che rimanga di nuovo incinta e avendo già abortito una volta io questo lo tengo. E allora, questa è una clip tratta da Piuma di Rohan Johnson, l'ultimo dei film che vogliamo segnalarvi in questa ricca settimana qui alla Rosa Purpura. La storia di due ragazzi, molto molto giovani, Ferro e Kate, e di una gravidanza inattesa, di una gravidanza inaspettata, che ovviamente non solo mette a repentaglio e comunque in discussione fortemente la loro vita di adolescenti, ma anche quella delle rispettive famiglie. Famiglie molto diverse tra di loro, e comunque c'è una scuola da portare avanti, ci sono amici che non sai fino a che punto ti capiranno, ci sono tante ansie che sono già tante quando magari hai 25-30 anni, figuriamoci quando sei nell'era della maturità. È un tema, Boris, molto interessante quello che Rohan Johnson sposa in questo Piuma, e lo fa con una grande leggerezza. Lo fa con grazia, con leggerezza, proprio con quella che avrebbe una Piuma che si poggia su un tema così importante e non pretende di invaderlo con chissà quali riflessioni, ma più che altro con l'emotività. Non fidatevi delle critiche che sono arrivate da Venezia, c'era questo impeto un po' snobistico verso la commedia e verso chi ha come Rohan Johnson uno stile lieve, che non vuol dire superficiale, ma che vuol dire essere capace di raccontare cose serie, come era nei primi della lista o Fin qui tutto bene, di raccontare cose importanti con il sorriso. Qui azzecca anche molti degli elementi del cast, penso ai due ragazzi, Buio Scimi e Luigi Fedele, lei forse troppo matura ma allo stesso tempo leggera nelle sue scelte, lui un fessacchione come può esserlo solo un adolescente maschio in quell'età, ma con l'eroico idealismo di chi agisce prima di pensare. A questo poi Rohan Johnson mette la grazia di Michaela Cescon, che è una madre a suo modo coraggiosa anche se piena di paure, e la vis comica di un Sergio Pierattini, che è sostanzialmente il commento feroce toscano, divertentissimo, geniale, che ti impedisce di toccare il dramma per arrivare all'aspetto divertente, appunto leggero, come una Piuma. E secondo me è una delle commedie più riuscite degli ultimi anni, e se vi è piaciuto Giuno lasciatemelo dire, questo è meglio. Andiamole a sentire allora le parole del regista Rowan Johnson, londinese di nascita, ma ormai assolutamente italiano d'adozione, al microfono di Boris Sollazzo. Rowan, questo film è una piuma nel vero senso della parola, anche nella levità del racconto. È vero che fa parte della tua grammatica, però qui sembra esserci qualcosa in più. Nasce anche dal fatto che, anche se non ha 18 anni, è qualcosa che hai vissuto? Sì, guarda, allora, tutto è partito perché io e la mia compagna Ottavia Madeddu, che è anche sceneggiatrice del film, eravamo arrivati a quell'età dove dici, insomma, facciamo sto figlio o no? E ce la facevamo addosso, diciamoci, è la verità, è come molta parte della nostra generazione. E quindi abbiamo detto, guarda, proviamo a esorcizzare questa paura scrivendoci su una commedia, ci impersonifichiamo in dei diciottenni, così sono più nella merda di noi, e quindi in qualche modo questo sviluppo catartico ha funzionato perché siamo diventati genitori, ora Ottavia aspetta il secondo, quindi forse pure troppo bene. Ti dirò delle nuove disavventure tragicomiche quando sarò senza sonno da dicembre in poi. Però ti devo rivelare questo, Boris, che in realtà noi il film l'abbiamo iniziato a scrivere 4 anni e mezzo fa, quindi ben prima di quando nascesse. Cosa è successo? Che poi quando abbiamo revisionato varie volte la sceneggiatura, essendo passati da quei 9 mesi, abbiamo aggiunto molte cose che avevamo vissuto noi personalmente. Ecco, l'ultima cosa, grande regia, ma anche grandissime interpretazioni, come l'hai scelti? Guarda, allora, è stato il casting più difficile della mia vita, perché non riuscivo a trovare questi due ragazzini di 18 anni. A un certo punto mi ero anche messo l'anima in pace, ho detto prendo due di 23, 24 anni, o faccio una roba che sembra che è un po' un peccato, o riscrivo la sceneggiatura, ma non trovavo, perché il film in qualche modo, diciamo, fa tutto il ventaglio delle emozioni possibili, da quello più buffo a quello più emozionante, eccetera. Non riuscivo a trovare. Dopo 1200 cast ho trovato questi due ragazzi fenomenali, Blue Yoshimi e Luigi Fedele, e poi affiancati comunque, insomma, da professionisti, insomma, i più grandi è stato un po' più facile. Dei ragazzi 18 anni come Brando Pacitto, come Clara Ronzo, che tra l'altro di umanità e di uno spessore dal vero, ora poi insomma, li sentirete un po' parlare, incredibile, per cui dicevo, ma io a 17 anni e mezzo, ma perché ero così scemo? Ma questi come hanno fatto? Infatti andavo dai loro genitori e dicevo, oh, ma come avete fatto a levarli così? Cioè, ditemi qual è il segreto. Rowan Johnson, al microfono di Boris Sollazzo, Piuma nei cinema italiani. Ciao Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, buon cinema. E allora continuiamo noi invece, andiamo verso la conclusione della trasmissione, ma prima dobbiamo occuparci di tutto il cinema che c'è da vedere a casa, cominciando dal game della scorsa settimana. Cominciamo ora da capo, senza rimembranze, piuttosto che vivere nel futuro e nel passato contemporaneamente. Allora, cosa diamine pensiamo che l'autore volesse dire nello scriverlo? E allora, si trattava di X-Men Apocalisse, questo è il film con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Lo hanno indovinato e hanno vinto Manlio Conte di Vasto, provincia di Chieti, e Nicola Parenti di, non lo sappiamo, è uno dei nostri ascoltatori che non ha scritto il suo indirizzo, quindi noi non possiamo spedirlo a pioggia, diciamo così, il nostro DVD. Nicola Parenti, si metta in contatto con la nostra segreteria, con la nostra mail, con la nostra pagina Facebook, ci dica il suo indirizzo e noi proveremo a spedirle il Blu-ray di X-Men Apocalisse, del quale ci facciamo raccontare tutto da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, ci sono due fraterni amici, un'eroina blu, un mostro immortale, suoi cavalieri, uno scienziato, un gruppo di studenti, un figlio segreto, un fratello maggiore, un agente della CIA, un prigioniero mutante e un militare. Il mio collega ha scritto che non manca più nessuno, solo non si vedono i due liocorni. È l'ultimo capitolo della saga dei supereroi mutanti, un capitolo, come si capisce, decisamente sovrappopolato, cosa che non permette di avere troppo spazio per lo scavo psicologico e trasforma il film in una serie di scene madri comunque molto spettacolari. Ai fan, diciamo, il compito di compensare con il valore aggiunto del proprio amore per gli X-Men, che è sempre stata una saga allegoria di tutte le minoranze e dei loro diritti. Il riversamento Blu-ray è ottimo, moltissimi gli extra, gag e papere sul set, video della festa di fine produzione, ci sono anche queste cose, il commento audio di Finger, del produttore e sceneggiatore Simon Kinberg, e un approfondito documentario sul retroscena del film e in più anche un'esclusiva galleria di foto, quindi insomma chi più ne ha più ne metta. Assolutamente tanta roba, come dicono quelli giovani con due G davanti. Noi diamo invece un'occhiata alle segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Sono andato a pescare, grazie al consiglio di Giulio San Giorgio, un film di Vincent Minnelli del 52, fu presentato, pensate, alla 14ª mostra del cinema di Venezia ed è uno dei più belli e più misconosciuti episodi, Giulio, di cinema sul cinema. Stiamo parlando di Il Bruto e la Bella, in onda su TV 2000 alle 15:20 di domenica 23 ottobre. Sì, Il Bruto è un cinico produttore a metà tra David O. Selznick e Val Newton, deciso a risollevare la casa di produzione ereditata dal padre. La Bella è un'attrice alcolizzata, ma non sono loro, non sono certo i soli protagonisti, insomma, di questa spietata autoriflessione su quelli che sono i meccanismi manipolatori della fabbrica dei sogni. Come dicevi, è assolutamente uno dei più bei film sul mondo del cinema, l'ennesimo capodopera di un grandissimo regista del cinema classico, Vincent Minnelli, che qui si sgancia da piroette e canzoni, ma non rinuncia a quello che è la sua cifra, ovvero una messa in scena straordinariamente barocca, dove il falso denuncia il falso. Devo dire che questo film ha uno dei finali per me più belli di sempre, stampato sul sorriso di Lana Turner. E allora potete verificarlo proprio domenica 23 ottobre alle 15:20 su TV 2000. Invece mercoledì 26 c'è un film che io ho amato davvero tantissimo, che forse ha aperto un po' anche una strada, è stato seminale, Giulio, negli ultimi anni, quello della resa dei conti attorno a un tavolo, ovvero Carnage di Roman Polanski. Sì, in seguito a una rissa fra due ragazzini, i rispettivi genitori decidono di incontrarsi per fare luce sull'accaduto e giungere a un accordo. Le due coppie però si confrontano in una discussione che degenera in una catena di liti furiose. È un set di pochissimi metri, un grandissimo cast, Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz e John C. Reilly, ognuno dei quali riveste a turno il ruolo di carnefice e di vittima, e la macchina da presa di Polanski, che disegna geometrie precisissime, spietate, e coglie le tensioni e i rapporti di potere. È un film che è tratto da una pièce di Yasmin Reza, ma è tutt'altro che teatro filmato, ma grandissimo cinema chiuso in un interno. E allora l'appuntamento è su Iris alle 23:40 di mercoledì 26 ottobre. Poi come sempre metteremo le nostre segnalazioni sulla nostra pagina Facebook. Grazie a Giulio San Giorgio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non mi resta che ricordarvi, anzi annunciarvi, il film con cui abbiamo giocato questa settimana, il nostro film misterioso di oggi era Julieta di Pedro Almodovar. La settimana prossima i vincitori, noi saremo qui come sempre sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è con La Rosa Purpurea.